effetto prossimità. Venerdì. Adesso facciamo tutta una trasmissione sfruttando l'effetto di prossimità microfonica. Vi piace questa voce? Amplificata dai bassi portentosi del compressore di Radio 24, siamo pronti a sfondarvi i woofer della macchina. Adesso, se avete i woofer della macchina, non avrete più i woofer. Chiedo asilo. Mancano 80 giorni alla fine del mondo. Sintonizzati, Drago, dobbiamo cominciare la trasmissione, avanti. Allora, cos'è? Ti sento col cazzo. Col cazzo, la fine del mondo in 80 giorni, sembra il titolo. Cifra tonda, no? Sì. Ci sono ancora ben 80 giorni alla fine del mondo. E il tutto secondo una notissima ciarlatanata maya propagandata da internet e da Giacobbo. Sì, però non più, Drago, perché 2 anni fa sì, però invece adesso Giacobbo non c'è più da nessuna parte, è sparito. Dici, è un vice direttore lui. Appunto, no, guarda che c'è ancora. C'è ma ancora. Si vede che per lui la profezia dei maya si è già avverata e adesso si trova in un'altra dimensione spazio-temporale. A parte che vabbè, Giacobbo va in onda tutti i venerdì puntuale su Rai 2. Ma non è lui. Ma come non è lui? Il Giacobbo originale l'hanno rapito gli alieni Maya. Ma gli alieni Maya? Sì, e hanno lasciato qui un simulacro di Giacobbo che sembra vivo. Come? Sembra senziente, ma assolutamente non lo è. È un automa alieno Maya. Vabbè, capito? Vabbè. Il vero Giacobbo è da qualche parte nel cosmo. Dai, Kappa, cominciamo questa puntata. Qualche spa anche potrebbe essere. Può darsi anche in Cecoslovacchia. Giacobbo, ci sei? Facciamo una, una sperita sedutica. Sì, allora chiamiamo Prodi. Una seduta spiritica. Giacobbo? Sì. Giacobbo, ci sei? Aspetta, sintonizziamoci sulle onde. Ma quali onde? Quelle dei morti. Cioè, ma non è morto Giacobbo, cioè, è lì che fa i programmi su Rai 2. Senti, senti. Quando si parte si sa perché si parte, dove si arriverà. Forse è la cosa più bella del viaggio. Sì, ma dove sei, Giacobbo? Dove ti hanno portato gli alieni Maya? Io sono qui non per dare delle risposte, sono qui per fare delle domande. Le risposte le delego a chi ne sa molto più di me. Ho cercato di prepararmi nelle domande e non nelle risposte. Ma allora, scusa, perché i programmi in TV li fai tu, che non sai niente, e non quelli che ne sanno più di te? Giacobbo? Vedi, se n'è andato. Vabbè, ma tu arrivi subito. Già non ci credi. E poi si è offeso. Ma come si è offeso? Si è offeso. Qua è caduto qui il collegamento telepatico. È caduto, non c'è niente da fare. Tipo, sai, in TV, no? È caduto il satellite. Beh, certo. Però non cade mai sullo studio televisivo. Mai, no. Sarebbe bello da vedere. Bentornati all'asilo Stoppani, da dove Kappa e Drago vi trasmettono tutti i giorni questo programma che si chiama Bentornati a Chiedosino. Va bene, dai. Oggi è martedì, e quindi fervono i preparativi per i consueti festeggiamenti del martedì. Non è vero, pubblico, non è vero. Cosa non è vero? Non è vero che è martedì? No, è vero che è martedì, ma non è vero che fervono i preparativi. Come no? Senti qua. Perché, ma scusa, di martedì non è prevista alcuna festa, così come di lunedì e di mercoledì, di giovedì, di venerdì, quindi smettila con questi fischietti, dai. Drago, allora, oggi è martedì, non fare il testone, segui le indicazioni della rete. Cioè, della rete nel senso di Radio 24. Devo andare, segui le indicazioni del web, di Facebook. Web. Se vai dire? Sul nostro Facebook, sul nostro FB si dice. Sì. Footish qualcosa. No, fetish. Fetish, footish. Lasciamo perdere. Cosa succede se vado su Facebook? Se vai sul nostro Facebook, per esempio, sul nostro FB, che sta anche per Femdom Bondage, ecco, forse. Vedrai una lista di like per il Mardi Gras. Mardi Gras. Mardi Gras, ma te l'ho già spiegato, sono solo illusioni quelle del web. Si creano delle mitologie fittizie che svaniscono dopo poche ore. Chi clicca like sul Mardi Gras dopo 2 ore non si ricorda nemmeno di aver mai sentito l'espressione Mardi Gras. Tutta colpa delle statistiche sbagliate. Tito, dai. Zitto, Tito, no, fermi. No, adesso devo spiegare una cosa difficile e non stai a sentire, poi Tito ti rimane il dubbio, rimane indietro tutto l'anno. Allora, allora, la colpa è delle statistiche sbagliate e dei tentativi falliti della scienza. Queste due componenti hanno pesantemente influenzato il mondo negli ultimi 100 anni, ecco, capito? Le statistiche sbagliate e i tentativi falliti della scienza. Ovviamente nessuno ne sa niente, perché capisci anche tu che sono cose che conviene nascondere, sia gli errori nelle statistiche sia quelli degli scienziati. Sì, scusa. Ho capito, Drago, ma questo cosa c'entra con il Mardi Gras? C'entra con il fallimento dell'esperimento di Internet. Internet alla lunga ha cambiato la mente delle persone e nessuno riesce a star concentrato su un concetto per più di 2 secondi. È in corso una mutazione antropologica, forse anche biologica, hai capito? Vabbè, quindi? Quindi se anche c'è qualche svitato che clicca like sul tuo Mardi Gras, non c'è niente di cui andare fieri. Spero di essere stato chiaro. È troppo tardi. Ma no. C'est trop tard, monsieur Drago. Ma come, vanno di nuovo i ballerini creoli? No. Oui, ci sono le ballerine. Vedi, no, ci sono le ballerine. Ma vabbè, sì, uguale. Perché guardi i ballerini? No, tu? Ma come? Non è vero. Non sono mica uno di quelli. Ma no, dicevo ballerini intendendo l'intero corpo di corpo. Sì, il corpo. Corpo di ballo, capito? Sì, sì, quindi ti piacciono i ballerini creoli. Ma chi l'ha detto? L'hai detto tu. Ma io l'ho solo nominati. Ho detto, oh no, di nuovo i ballerini creoli. Sì, sì, ti sei scoperto, Drago. Ma che ragionamenti fai? Con l'anello del matrimonio, giusto, siamo, per siamo proprio all'asilo, però insomma abbiamo anche una certa, io. Voilà le Mardi Gras. Ma basta, ma che palle, le stelle filanti, i coriandoli, le vomitazze, le pisciazze, le cagazze degli ubriaconi di New Orleans, basta. Voilà le Mardi Gras. Non era voilà l'ete, voilà, no, l'ete, ma no. Quella lì era quella di quello che ha ammazzato la figlia di Trintignant. Ma no, era dei Negres Verts. Il tipo della figlia di Trintignant era nei Noir Désir. Ah, vabbè, c'è sempre Noir, no, nero, Noir, dai. Negro, sì. Ma non c'è un gruppo che si chiama Les Negres Noir? No, e le Verts Désir? È una ditta di macchine elettriche. Cosa? Verts Désir. Ah. E quindi adesso che succede? Balla, Drago, no? C'è il Mardi Gras, balla, no, finché non cadi per terra. No, balla, balla, balla come se fosse una festa della regione Lazio con la maschera del maiale. Ah, allora, Drago, devo proprio grugnire, devo. Così? Brufola. Brufola, brufola. Pronto? Pronto, signor. Manolito. Sì, Manolito, lo so. Età Manolito. Sì, sei sempre lì con Julian Assange, l'ambasciata dell'Ecuador, e ti dà fastidio, ci chiami. Sì, che signor, ho sì, fatto signor. Il riassunto per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Cosa vuoi ancora? Manolito è desperato perché il signor Assange è sempre marzo insopportabile. Vabbè, lo immagino che sia insopportabile, te l'ho già detto però 1000 volte, Manolito, qui all'asilo siamo al completo, non c'è posto. Ecco. Quindi chiudiamo la comunicazione così, ci siamo detti tutto. No, sperate, signor. Manolito tiene un gran problema ora, perché il signor Assange ha pretendido che Manolito gli preparasse una gran quantità di bagna cauda. Ma come la bagna cauda? È un piatto piemontese. Non lo sa, signor. Io so solamente che para trovar las anchugas ha estado un infierno. E poi sabe también che la bagna cauda è pusia come una carogna. E también las flatulenzas del signor Assange ora e pusian come una carogna. Cos'è che fanno? E pusian. Ho capito. Ma io cosa c'entro? Poi scusa, mi chiedo, Assange, dove diavolo ha trovato la ricetta della bagna cauda? Anche voi? Estaba in un dossier secreto che Manolito ha evovinato. E copiarle las parolas, las palabras. Ah, sbobinato. Hai ebobinato la ricetta della bagna cauda. Sì, signor. Da un dossier. Ma che dossier era? Armas chimicas, signor. Vabbè. Arrivo. Ah, ok, las peperones. Con la bagna cauda, las peperonas. Dove trovo peperonas? Ma io ora? Forse conosco un pizzaiolo che fa pizza babaroni. E da niente. Puedo mandare a Sanche da pizzaiolo. Ecco. Ciao Manolito! Voi sempre, sempre così, ciao, chi se ne frega di Manolito, chi resta qui con Giuliana Assange. Adesso saluti, metto giù, ciao! Ciao! Metto ciao. Giù! E da niente. Quando calienta il sol nell'ambasciata, dentro il mio corazon cerca di te. Ma la famiglia è lontana, che non sa cantare nada, signor. Che non puede, signor Assange, io non puede far anche la intrattenimento de, insomma.